Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera da Maurizio Melis, quarta puntata di questa settimana speciale di Smart City, con la quale, in collaborazione con RSE, Ricerca Sistema Energetico, stiamo facendo il punto sulle principali tecnologie impiantistiche per l'efficienza energetica nel mondo residenziale, con particolare attenzione per gli aspetti economici. Ebbene, una delle tecnologie di maggior successo è senza dubbio il fotovoltaico, che grazie anche a una stagione di incentivi molto generosi ha avuto un boom negli anni scorsi, ma che con il loro venire meno ha registrato una bruschissima frenata. Certamente oggi il fotovoltaico non è più l'investimento finanziario che era qualche anno fa, ma questo significa che non ha più un senso economico? Ne parliamo con Salvatore Guastella, ricercatore di Ricerca Sistema Energetico e presidente del Comitato Tecnico del CEI sui sistemi fotovoltaici. Buonasera Guastella. Buonasera. Allora, senta, noi abbiamo chiesto, e voi molto gentilmente ci avete accontentato, a voi di RSE, di fare un po' di conti economici. I casi però sono molti, e allora quali sono quelli che prendiamo in considerazione e perché? Ma un impianto fotovoltaico che viene installato su un'utenza domestica è influenzato da vari fattori, quali la zona climatica dell'installazione e la potenza ovviamente dell'impianto fotovoltaico. Allora, il caso che noi abbiamo considerato come principale è un'utenza domestica residenziale con una potenza contrattuale di 3 kW e un consumo annuo di 3.000 kWh. Abbiamo la tipica famiglia, diciamo, di 3-4 persone. Perfetto. E abbiamo ipotizzato quindi un'ubicazione di questa utenza nel nord Italia con un certo livello di radiazione solare e la stessa utenza a sud Italia dove si ha un incremento della radiazione solare disponibile. Nel fare questa analisi abbiamo ipotizzato che l'utenza sia in grado di assicurare un autoconsumo del 30%. Autoconsumo nel senso che parte dell'energia fotovoltaica generata viene consumata direttamente dall'utenza senza che viene immessa in rete e poi eventualmente ripresa. Riutilizzata. Allora, quindi andiamo a Milano, impianto di 3 kW sul tetto, autoconsumo a circa il 30%, una famiglia di 3 persone. Quali sono i conti? Allora, i conti, ipotizzando il costo attuale di un impianto fotovoltaico che è intorno ai 2.000 euro per ogni kilowatt installato, quindi abbiamo un costo di installazione poco meno di 6.000 euro, a un costo di manutenzione annua intorno ai 60 euro, possiamo vedere dai nostri calcoli che abbiamo effettuato che tenendo conto delle agevolazioni economiche attualmente in vigore, quale l'elitazione fiscale al 50% per 10 anni e il regime di scambio sul posto, cioè quella possibilità di poter immettere energia in esubero alla rete e successivamente di riprenderla quando se ne ha bisogno. Con queste ipotesi, diciamo, di partenza abbiamo riscontrato che il tempo di rientro dell'investimento è di 9,5 anni per una installazione a Milano. A Catania invece, che è l'altro scenario che avete preso in considerazione, dove c'è più sole, quali sono i conti? A Catania i conti sono anche migliori perché in quanto si ha un ritorno dell'investimento in poco più di 7 anni. Ma sono numeri così diversi dal passato? No, quello che abbiamo riscontrato effetto, da questi calcoli è che questi numeri sono molto simili a quello che si riscontrava all'inizio del conto energia in Italia quando venivano incentivati gli impianti fotovoltaici con tariffe abbastanza elevate, ma erano molto costosi anche gli impianti all'epoca, no? Quindi alla fine i tempi di rientro erano simili. Sì, perfetto, sono simili a un certo punto alla diminuzione di costi dei componenti, ma anche alla migliore esperienza nella realizzazione di impianti, quindi diminuzione anche dei costi di installazione. Ecco, naturalmente non sempre si può decidere se dove mettere l'impianto fotovoltaico, perché uno di solito lo mette sul tetto della casa dove si trova. Ecco, quali sono altri fattori sui quali invece possiamo agire per migliorare i conti? Lei ha parlato per esempio di autoconsumo, abbiamo ipotizzato un 30% di autoconsumo, questo è un tema sensibile. Ecco sì, aumentando il valore dell'autoconsumo si migliorano i conti, ad esempio a Milano passando dal 30 al 60% il ritorno dell'investimento investimento passa dai 9,5 anni ai 7,8 anni. Questi miglioramenti sull'aumento dell'autoconsumo si possono avere ad esempio spostando alcuni carichi che, quando non c'è generazione fotovoltaica, spostarla verso le ore diurne, oppure per esempio utilizzare sistemi di riscaldamento a pompa di calore elettrica che quindi assorbono molta energia elettrica. Perfetto, sì, anche questa è una soluzione ottimale. Ecco, mi faccia dire però una cosa sulla produzione fotovoltaica: è importante garantire l'affidabilità della generazione fotovoltaica, quindi è importante che l'impianto fotovoltaico sia fatto con componenti di adeguata qualità, quindi dotata di certificazione, e che la progettazione, l'installazione e la manutenzione sia fatto da personale qualificato. Altrimenti i conti non tornano più, perché ecco, la vita utile dell'impianto crolla drammaticamente. Esatto. I dati completi delle simulazioni di RSE sono disponibili sulla pagina di Smart City di Radio 24. Grazie Salvatore Guastella. Grazie a lei e buonasera a tutti. Ci fermiamo qui, appuntamento a domani.